si spengono le luci della città, si spengono le insegne di tutti i bar, e quando viene la notte, e quando viene la notte, vado cercando nel buio il tuo sorriso, ma non lo trovo perché, perché tu m'hai lasciato. E quando viene la notte, e quando viene la notte, vado cercando un amore che ho perduto, ma non lo trovo perché, perché tu m'hai lasciato. La mia ragazza non sa che sto piangendo per lei, la mia ragazza non sa che se tornasse da me troverebbe quello che non ha. E quando viene la notte, e quando viene la notte, vado cercando nel buio le tue mani, ma non le trovo perché, perché tu m'hai lasciato. E quando viene la notte, vado cercando nel buio le tue mani, ma non le trovo perché, perché tu m'hai lasciato, perché tu m'hai lasciato.